18.02 minuti, quasi e 03 per questo mercoledì magico 15 maggio. Siamo partiti con un saluto a Alice Murro. Penso che riprenderemo l'argomentazione con questo congedo e con questo ricordo di una grandissima autrice. Nel 2013 ricordo premio Nobel, insomma abbiamo anche portato lavori dell'autrice recentemente scomparsa. Intanto do il buongiorno a Silvia, buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, penso che sia doveroso ricordare Alice Munro che è scomparsa ieri a 92 anni e che è stata senza dubbio la maestra del racconto. Cioè la particolarità maggiore della Munro è proprio quella di essere riuscita ad avere una fama eccezionale, una fama mondiale e anche il premio Nobel scrivendo esclusivamente racconti. Ora, noi sappiamo che il racconto è il genere meno amato, tutto sommato, senza dubbio dagli editori e dai librai, il genere meno smerciabile, che ha meno mercato e anche uno dei generi, il genere in prosa più difficile. Sai cosa diceva William Faulkner? William Faulkner diceva che tutti i romanzieri in origine vorrebbero essere poeti. Quando vedono che non riescono a fare i poeti, scrivono racconti e siccome anche il racconto è molto difficile, alla fine si buttano sul romanzo. Allungano un po' la forma, ecco, è vero. Ecco, la Munro ha sempre scritto racconti. Ha provato anche una volta, a buttarsi sul romanzo, però le è venuto fuori un romanzo di racconti. Vedi, nel fin dei conti il racconto era la sua dimensione e un racconto abbastanza particolare, perché a differenza di quelle che sono le categorie del racconto individuate dai teorici, ci sono molti teorici della short story, del racconto, che dovrebbe essere breve, che dovrebbe quasi rispettare le unità di tempo, di luogo e di azione, che dovrebbe entrare in medias res e darti piuttosto degli stimoli, delle suggestioni, che non raccontarti una trama vera e propria. Pensa ai Dubliners di Joyce, ai Dubliners, tanto per intenderci. Bene, invece il racconto per Alice Munro era lungo normalmente, poteva durare, raccontarti una storia che durava anche degli anni, dei decenni, e spostarsi, anche se moltissimi suoi racconti si svolgono nella provincia più reclusa dell'Ontario, poteva spostarsi da lì alla città e viceversa. Insomma, lei le ha un po' disdegnate tutte queste regole. Altra cosa, il racconto di solito, scusa, è che mi è venuto caldo e mi devo togliere la sciarpa. Di solito era considerato un genere, diciamo così, femminile, nel senso che, infatti lei stessa lo diceva, che aveva iniziato a scrivere racconti perché, avendo famiglia e avendo una realtà domestica da guardare, non aveva tempo per concentrarsi così a lungo come richiede un romanzo. Per cui lei scriveva dei racconti e inizialmente, come tante donne in Canada, ma non solo, e inizialmente li pubblicava sulle riviste femminili. Quindi in questo senso il racconto è visto da molti come un genere minore, insomma, che va sulle riviste, eccetera. Poi però lei è stata molto brava, è riuscita con i suoi raccontini, chiamiamoli raccontini per nel senso di disdegno che le davano i critici, è riuscita ad arrivare a New Yorker, che è invece un giornale per palati sopraffini, e da New Yorker poi a diventare quella che è diventata. Lei scriveva dagli anni 60, quindi si tratta di una carriera molto lunga e questo veramente è eccezionale. Credo sia l'unica che in una carriera di 60 anni, sono più di 60 anni, ha solo scritto racconti. Io aggiungo in maniera sintetica, dal punto di vista emotivo, quello che porta secondo me ad Alice Munro a dire ha vinto anche nelle mie emozioni, è perché condivido pienamente, ma aggiungo è ingannevolmente semplice. Sembrano racconti così di una quotidianità, sì, e di percorso, ma in profondità lei abbiamo è molto, ecco. Cioè non è quella che ti fa il racconto appunto di una quotidianità, di emozioni quotidiane eccetera. Dietro ai suoi racconti c'è sempre uno sguardo estremamente lucido che a volte rasenta la cattiveria, sì, è molto aspra e non fa sconti a nessuno. E quindi da un certo punto di vista certo c'è, mette a nudo le miserie della società e della cultura patriarcale, però non è una femminista, no. Però lei ha avuto anche delle rogne, cioè, certe volte è stata criticata dalle donne, è stata criticata da dei gruppi femministi, perché ripeto non fa sconti a nessuno, c'è una lucidità nel guardare il mondo, specialmente il mondo, chiamiamolo così, gramscianamente subalterno, il mondo degli emarginati, il mondo delle donne che vivono in provincia, dagli anni 2000 si è dedicata soprattutto dalla mezza età in avanti, diciamo, ed è senza sentimentalismi, questo senza dubbio, è l'autrice meno sentimentale che io conosca. Quindi che possa riposare in pace, grazie a Alice Munro, scrittrice ritenuta nel contemporaneo la più grande autrice canadese. Noi iniziamo il nostro Voltiamo Pagina allora con due selezioni, la mia casualmente ha delle attinenze con tutto ciò, però ne parleremo poi nella seconda parte. Per quanto riguarda il lavoro che hai portato, Silvia? Dunque, la mia non ne ha, a meno che l'unica attinenza è che è un romanzo scritto da una donna. Non ne ha, anche perché questo è un romanzo profondamente legato al contemporaneo e al politico, mentre Munro non è che si sia mai addentrata in un discorso politico. La sua politica è la politica della realtà quotidiana delle persone, diciamo, della vita. Non partitica, ecco, ok. Beh, poi comunque chi ne vuole sapere di più sulla Munro, cioè, basta, non ne parliamo più, perché io poi ne ho scritto anche sul Manifesto, nel ricordo nei che tempi. C'è nel Manifesto, e insieme ad Alessandro Gebbia, che è uno dei più grandi invece esperti della Munro. Per inciso, non è fra le mie autrici favorite la Munro. Neanche mia, sai, però ne riconosco il talento. No, certo. Quando vedi anch'io. Un campione, magari non gioca nella tua squadra, ma che vuol dire un campione? No, sì, per sì. Carità, anch'io. Dunque, io invece porto un libro, dicevo, scritto da una giovane scrittrice italiana che si chiama Valentina Mira. Il titolo è Dalla stessa parte mi troverai, e Edizioni Sem. Ora, questo libro è un libro che non ho esitazione a dire, un libro importante e un libro molto molto bello, che io ho letto quasi per caso, perché questo ce lo dà da mettere in palio la Nicoletta di Trame, e io sinceramente ce l'ho in casa da mesi, non mi attirava. Poi sai, arriva quel punto che non hai niente da leggere e dici vabbè, leggiamo anche questo. Però dà soddisfazione quando capita così, eh? Ecco, dai. Perché non mi attirava? Perché secondo me questo libro è stato messo nella collana sbagliata, o comunque ha una veste editoriale sbagliata, mica brutta. Però è un libro con tutte le pagine gialle, no? Questa copertina molto... vedi? Sì. Sì. E sta in una collana che si chiama Italian Tabloid, che sul retro reca una frase di James Ellroy, quindi tu ti immagini subito, sì, di essere di fronte male. Immagini subito di essere di fronte a un giallo di quelli tosti, a un hard boiled. Ecco, invece si tratta di un libro, prima di tutto non è un romanzo fino in fondo, nel senso che sì, ha un'andatura romanzesca, però tratta di fatti veri e chiama tutte le persone col loro nome, quindi è con il beneplacito di chi viene raccontato, che viene raccontato col suo nome, racconta un episodio molto tragico avvenuto negli anni 80, con precedenti negli anni 70, quindi negli anni di piombo. Diciamo che parte da quelli che sono gli anni di piombo, se vogliamo, per poi vederne le conseguenze nel futuro, nel periodo immediatamente successivo. Soprattutto è un libro, se posso definirlo così, non mi viene un'altra parola, è un libro estremamente, duramente, aspramente antifascista. Allora, ci piace. Sì, però sai, perché non è un libro. Non è facile scrivere contenuti non è facile politicizzati, infatti, senza poi pestare i piedi a quella. Oltre che è la pestare narrazione. I piedi, ma anche senza diventare retorici o appunto, propagandistici appunto, o che altro. Pestare i piedi, allora, alla formula letteraria. Cosa succede? Succede che l'autrice presenta un suo libro in una libreria. E una signora molto più anziana di lei le si va incontro per farsi firmare una copia e le due chiacchierano un attimo e viene fuori che questa signora ha un passato estremamente importante. Perché? Perché lei è la moglie di un uomo che era stato accusato di fare parte del gruppo che uccise due fascistoni alla sede della MSI di Acca Larenzia. Ah. Gruppo di estremisti di sinistra che non si è mai trovato e che a causa di una confessione spontanea di una donna che al tempo aveva 14 anni è stato preso sulla base semplicemente del fatto che questa donna è andata dai carabinieri a dire: io ho visto che lì c'era, ci doveva essere, mi è parso d'avere visto che lì c'era, ho sentito che lo chiamavano uno coi capelli neri che si chiamava Mario. Ora vatte in una Roma a cercare uno coi capelli neri che si chiamava Mario. Bene, trovano questo poveretto coi capelli neri che si chiamava Mario, lo prendono, lo mettono in galera senza fare tanto né quanto e il giorno dopo viene trovato impiccato nella cella di isolamento dove l'avevano messo, cella antisuicidio. A questo punto la storia chiaramente riguarda soprattutto la vita precedente di queste due persone, quindi è una grande storia d'amore, se vogliamo, quella di questi due, di questo uomo e della moglie che si erano conosciuti ragazzini in un circolo di extra parlamentare, se vogliamo, di estrema sinistra. Si erano conosciuti negli anni in cui è avvenuto il fatto di Acca Larenzia, che è avvenuto nel 78. Si mettono insieme, si sposano, hanno un bambino e trovano entrambi lavoro. Lei addirittura lavora alla sede del Partito Liberale e lui è un infermiere. E quando sono felici, così nella loro piccola vita, tutto gli sembra andare bene, gli arriva questa irruzione della polizia. E l'arresto conseguente e la conseguente tragedia subito il giorno dopo. Quindi, naturalmente il libro poi ci fa vedere come questa donna abbia cercato di arrivare alla verità per tutto questo tempo. E come soprattutto siano venute a galla tante cose che non stanno in piedi, c'è tutta una tante serie di discrepanze nelle indagini, sì, nei documenti. C'è tutta una serie di discrepanze, appunto, giustamente dici tu, nella morte, nel modo in cui questa persona è morta, nel modo in cui l'hanno ritrovato poi dopo l'autopsia, nel fatto che sia stato nascosto alla moglie appunto che gli stavano facendo un'autopsia, nel fatto che questo avesse che cosa aveva, con che cosa si sarebbe impiccato, non, tra l'altro, visto che è in una cella antisuicidio, visto che è in una cella antisuicidio, visto che non si ritrova più la sua cintura non si è mai ritrovata e lui era era stato arrestato con la cintura, vestito. Certo. Vabbè, gliel'avranno tolta proprio per evitare il suicidio, ma dove è andata a finire? Non c'è insieme alle altre robe che gli hanno tolto. Visto che gli avevano tolto anche i lacci delle scarpe, però quando lei lo rivede c'ha le scarpe allacciate e ce le ha allacciate proprio come se le allacciava lui, insomma, in maniera particolare. Cioè, c'è tutta una serie di cose che fanno capire sempre di più che questo tizio, che questo uomo non si è impiccato. Tra l'altro non aveva nessun motivo per farlo, ma è stato impiccato. Ti chiedo una cosa, sì. L'età dell'autrice? 30 anni. 30 anni, quindi giovane. Sì, però c'ha un precedente. Un precedente, sì, anche sì, lei. Sì, è molto importante il modo in cui lei racconta questa storia e il fatto che abbia conosciuto questa donna e le abbia chiesto di poterla raccontare, perché l'autrice viene da una relazione con un fascista. Quindi lei nel suo lavoro precedente ha raccontato proprio, che è un lavoro sulla violenza di genere alla fine, ha raccontato proprio di questa sua relazione con questo fascista, con cui lei si era messa pensando, va bene, non me ne frega niente delle sue idee, mi piace, eccetera, e poi l'ha scoperto essere appunto violento, sì, prevaricatore, misogino, eccetera. E quindi ha avuto una relazione veramente orribile, e da questa relazione è passata esattamente dall'altra parte, anche come idee politiche. E si vergogna moltissimo di questa cosa. Di questa relazione, quasi una espiazione scrivere. Sì, sì, e ne porta proprio, direi, quasi le stimmate addosso. Per cui si è confrontata con questa persona, con questa donna, che invece è sempre stata dall'altra parte, dalla stessa parte mi troverai, appunto, come il titolo, e la prende un po' come un modello. E, tra l'altro, il libro è molto bello perché non è un racconto cronologico. In qualche modo mette a confronto, interseca continuamente quella che è la storia dei due personaggi principali, di questa coppia che viene così drammaticamente rovinata proprio. E con la storia, con il presente, con la storia dell'incontro di queste due donne e della loro relazione, e del modo in cui la più giovane si rifà all'altra quasi come un modello. Certo, ha una visione così quasi di transfer e di motivo per seguire. Beh, le emozioni ci sono e come, i percorsi anche da conoscere altrettanto presenti e importanti. La playlist, non sto tardando apposta per... Non potevo non mettere questa, anzi, questa infatti cominciare la playlist con Francesco De Gregori, perché il titolo viene dalla sua canzone Sempre e per sempre. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. tu non credere. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Il titolo De Gregoriano è un plus di partenza. Chi lo scrive secondo te? Sergio. Sergio. Ecco, vedi, anche in questo caso io ne riconosco il talento, però ognuno di noi ha poi un gusto, un ascolto, una voce. Certo, naturalmente. Quant'altro. Ti leggo il finale del romanzo, tanto, ecco. Tanto così, no, tanto. Non è che, non, che, sveli, che non svelo niente. Non sveli chissà perché che cosa, certo. Purtroppo è la vita di ogni giorno e nessuno è riuscito a fare luce completamente su quello che è successo. Lo stereo diffonde la voce di De Gregori, una delle sue canzoni più belle. Parla di amori unici, insostituibili, di quelli che sanno vincere spazio e tempo e posti più freddi del mondo e persino la morte, se gli gira così. Ma la canzone parla anche di parteggiare. Le parole di De Gregori legano l'amore e la lotta e chissà che lo facciano di proposito o che sia una pura ma piacevole casualità. Rossella alza il volume al massimo e canta sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Ah, non potevi esimerti da portare questo brano, eh? Quindi, non potevo. No, assolutamente, anzi, onore al merito per la ricerca e per la vostra vasta discografia. La vostra vasta biblioteca chiaramente può aumentare perché, se ho ben capito, il libro è in palio. Sì, sì, sì. Lo potrete ritirare. Intanto ringrazio quante librerie che abbiamo in collaborazione. Ieri ho conosciuto Ron Rush alla Biblion. Avrei voluto venire, ma ero distrutta. È stata una presentazione che dire bella è un eufemismo. Lui è un personaggio particolarissimo, gli ho già anticipato la possibilità Pellegrino e lui con entusiasmo ha detto: ma c'è anche del buon vino. Beh, ovvio, se ci sono io c'è anche del buon vino. Tornando al tuo lavoro che hai presentato, oltre alla giovane età dell'autrice aggiungo un accadimento del 1978 che è tornato alle cronache, fra l'altro, quindi è motivo ulteriore per averne visione e voce, in effetti lei complementare. Il libro inizia proprio con una di queste celebrazioni ad Acca Larenzia in cui tra le altre cose lei vede anche, c'è una donnina piccola bionda che fa il diavolo a quattro e che si sbraccia per celebrare questi morti, che chiaramente poi dice di lì a poco diventerà il primo ministro. Citazione sì. Anche per quanto riguarda il contemporaneo, i giorni nostri. Allora, il libro, se ho ben capito, è in palio. Sì. Ok, potete ritirarlo domani alla Ubic in occasione dei 21 anni della libreria in collaborazione con Radio Città Fujiko. Il libro arriva però, diciamo, per dover di cronaca e per ringraziare Libreria Trame. E pensa, siamo diventati sì. Tentacolari nelle librerie e questo mi fa molto piacere. Possiamo avviarci con il quiz, cara Silvia? Sì, io, visto che si parla di anni di piombo e di questo periodo storico, vorrei sapere da quale università italiana partirono i primi movimenti di studenti nel 68. Qual è la prima università che anticipò proprio le lotte del 68 in Italia? Abbiamo già risposte, però intanto mandiamo un po' di musica, perché come di consueto le mandiamo, ufficializziamo il contest dopo la pubblicità. Quindi ripetiamo, autrice, titolo e casa editrice. Valentina Mira, dalla stessa parte mi troverai, casa editrice SEM. Che è un acronimo, Società Editrice Milanese, sì, mi pare. Sì. Ok. Ieri ho avuto modo anche di conoscere, e lo porteremo in frequenza in qualche last minute, avremo modo, l'editor della Nuova Frontiera. Ah, bene. Così diamo spazio alle case editrici indipendenti. Secondo stacco musicale, pubblicità e premiazione. Sì, posso dire una cosa velocissima? Certo. Lo stacco musicale che sentiamo adesso è di Gian Gilberto Monti, scritto da Monti con Mauro Pagani, e fa parte di uno spettacolo che Monti fece proprio sugli anni di piombo, che si chiamava Dopo il piombo. A tra poco, ricordo, 333-180-9494. La incontri nella notte, a stracci colorati, legati sulle spalle, puntati sulla testa, e stracci per il lutto, e stracci per la festa, si sposa dappertutto, e sposi non ne ha. È la mia razza senza saggezza, che vive e muore di curiosità. È la mia razza come una carezza sulla tristezza, difficile e imperfetta. Ed io più di lei, la mia razza non cambia. Il fiato e la via, sulla strada di casa, perde la fantasia. È la mia razza, questa gente è pazza, che vive come non avesse età. È la mia razza che brucia in fretta, che ha mille storie, storie non ne fa. Alla mia razza, questa gente è pazza, che ride. Questa gente è pazza, che ride come non avesse età. Alla mia razza che brucia in fretta, a questa vita che non si sa. Delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi le merci, sta nel prendersi la mano per tirare i sanpietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucida. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è. L'ho lasciata tutta, mancano 10 secondi Silvia, sono stato bravo anche come DJ, però i complimenti vanno a te da parte di Sergio che scrive: io devo uscire, accidenti, non potete farmi questo, una playlist così mi fa già chiudere la giornata, ho già avuto tutto. Vabbè, non so se Sergio ci sta ancora ascoltando, ma diciamogli pure che la mia playlist finisce qui, quindi se l'ha sentita fin qui è a posto. Ha già vinto. Ha già vinto. Vediamo invece chi si porta a casa il lavoro presentato da Silvia. Chiaramente citerò tutte e tutti, intanto do la risposta esatta: Trento, la città dove è iniziato, anzi che ha anticipato il 68 per l'esattezza, facoltà di sociologia. Non era stato richiesto, no, però la facoltà, no, quindi non è valore aggiunto, è un valore aggiunto che è in voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fugico, con un caloroso grazie per aver giocato e giocare con il Voltiamo Pagina. Paola, risposta esatta, facoltà di sociologia, Trento. Trento, scrive anche Maria Carla. Procediamo, sociologia a Trento, Luigi. Luigi, ti aspetto domani alla libreria Ubiche perché devi ritirare un premio che hai vinto qualche puntata fa. Risposta esatta e vincitore è Giorgio, quindi grazie Giorgio, oltre per la vicinanza con Radio Città Fugico e i progetti legati alla grafica, all'illustrazione e il disegno. Risposta esatta Trento, il lavoro arriverà quindi nelle vicinanze, se non sbaglio, di San Giovanni in Persiceto, e ne siamo ben contenti. Grazie Giorgio. Mi raccomando, Luigi, Maria Carla, Paola, restate sintonizzati perché insomma c'è la possibilità di portare il lavoro di recente e per la prima volta portato in Italia dalla Adelphi, dell'autrice Clarice Lispector. Ah, ti saluta con un caloroso abbraccio Giorgio, per cui saluti a Silvia. Grazie mille. Arrivo, scrive Luigi, noi ci siamo e come. Allora, abbiamo... Senti, una cosa, abbiamo dimenticato di dire cos'era l'ultimo brano. Ah beh, però l'abbiamo tutti già lo proposto. Dovremmo sapere. Esatto, è quello che va. Però se qualcuno non lo sa, era naturalmente Ma chi ha detto che non c'è di Gianfranco Manfredi, una canzone simbolo proprio degli anni 70. E poi dopo il video viene portata la playlist, no? Sì, sì, sì, in fondo al video c'è sempre la playlist. E a breve avrete il video. Questi minuti dedicati alla presentazione di questa anticipazione uscita per Adelphi dal titolo La città assediata. Lei è Clarice Lispector, autrice di origine ucraina, ma vivrà ben poco in Ucraina, in quanto l'eroe, tra virgolette, attuale, Stepan Bandera, tanto decantato e declamato, porterà la sua famiglia di origine ebraica a scappare, a fuggire, per quanto riguarda tutto quello che in correlazione con il nazismo ha portato anche in Ucraina una devastazione assoluta. La sua famiglia riesce a scappare in Brasile. In Brasile praticamente troverà, da lì in avanti, va giovanissima nel subcontinente sudamericano, così possiamo definire il Brasile, e troverà una costruzione, una vita, una sorta di percorso artistico letterario che in effetti, con chiara radice, se vogliamo, legata alla Mitteleuropa, ha un'idea kafkiana del racconto, della narrazione, della scrittura. Abbiamo già conosciuto Clarice Lispector con Il Lampadario, libro che mi è piaciuto tantissimo. Aggiungo ora La città assediata, sempre edizione Adelphi, un libro scritto nel 1949. La Lispector, a sua volta, perché ho portato con la Munro qualche attinenza, perché anche lei ha chiaramente una scrittura ben presente e, se vogliamo, e non è certo motivo di creare degli steccati, femminile, ma non concede assolutamente nulla, anzi tutt'altro, è molto critica, molto presente, molto lucida nella sua, se vogliamo, stranezza di narrazione, atipicità. Lei è molto molto originale. Per quanto riguarda il plot, entriamo nella scrittura della città assediata, piccola città del Brasile. La protagonista, Lucrezia, deve per così dire alle prese, ed è molto in questo caso autobiografico, con la crescita e anche col dialogo per il territorio in cui vive, San Gerardo, mi pare si chiami questo paesino di pochissime anime. Inizia proprio con una festa così sagra di paese, dove lei vive, vede e costruisce un inizio di scrittura in relazione al luogo. Pare magico, pare strano, pare onirico, ma in realtà è molto concreto. Per quanto riguarda la protagonista, avrà modo di crescere, di sposare un uomo di cui è perdutamente innamorata, quest'uomo abbiente, molto sicuro, molto presente, la porterà al matrimonio, ma soprattutto la porterà lontana da queste sue radici, la porterà in una grande città. In questa grande città lei riesce ad affermarsi, lei ha dei percorsi di difficoltà, ma allo stesso tempo anche di grande soddisfazione. Purtroppo resta vedova, purtroppo i suoi percorsi verranno interrotti, visto l'importanza di questo rapporto, di questa coppia, e così la vita porta a troncare questa relazione e allo stesso modo il dimenticare ritornando alle origini. Ecco, questo, o dimenticare, più che altro elaborare, l'elaborazione del lutto ritornando alle origini. La Clarice Lispector è una scrittrice di epifanie e rinascite, sia per i luoghi che per le protagoniste o i protagonisti. Quindi un termine dopo essere partiti in giovane età, un termine, un ritorno e una ripartenza. E le difficoltà ci sono sempre. Lei troverà un paesello natio completamente, completamente cambiato e diverso rispetto appunto alle origini. E qui i contenuti sono diversi e cambia completamente una visione che la porterà all'elaborazione e, perché no, anche alla nascita di un nuovo amore. È un libro di epifania e rinascita continua. È scritto in maniera magica, il titolo è La città assediata. Lei è Clarice Lispector, l'abbiamo già conosciuta con il libro Il lampadario, che se per caso vi capita e avete voglia di leggere qualche pubblicazione passata è consigliatissimo, di Clarice Lispector. Ora arriva La città assediata. La pubblicazione è ad Elfi ed è il mio consiglio per la settimana e per il mercoledì magico e letterario. Del resto magica è Clarice Lispector. 15 maggio. Ora metto un brano che sarà motivo di quiz, quindi lo interrompo quasi subito per lanciare il quiz. Ok, siamo in Brasile, eh? A sala cala, o João não prepara. Quem está na sala com pipoca e bala, e o urubu sai voando manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de fora, e é um corre-corre, e o mocinho chegando dando. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura. È un brano di Bossa, l'abbiamo ascoltato anche nella selezione mattutina come colonna sonora per lettura delle prime pagine. Lei è una grandissima e diversa interprete nelle sonorità di musica brasiliana, conosciuta anche per le sue interpretazioni e scritture musicali di tropicalismo, oltre che come stiamo ascoltando di Bossa. Sapete che i miei quiz sono semplici, lei viene censurata addirittura nel tempo di Operazione Condor e quella che è la dittatura dei generali nel subcontinente sudamericano del Brasile, come in tanti altri paesi, purtroppo col beneplacito della CIA. Il periodo dei generali avrà diversi problemi di censura e di limitazioni, per questa autrice, del quale aspetto nome e cognome per avere La città assediata, edizioni Adelphi e Clarice Lispector. Ricordo, emotivamente molto forte, molto intensa, pensate, è considerata eroina nazionale artisticamente e socialmente per il Brasile. Alle sue esequie sarà presentata nel feretro avvolta dalla bandiera verde oro con la frase che rappresenta Ordem en Progresso. Di chi si tratta? 333-180-9494. Se espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, é faca com faca, é rapa com rapa, e eu me realizando, bambo. Quando a luz acende, é uma tristeza, trapo presa. Minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. E sta terminando il brano, abbiamo due risposte esatte, quiz semplice, però insomma direi che ci sta con la cultura brasiliana. Elis Regina scrive: Paola, è bellissima questa canzone, ce l'ho anche nella mia playlist, scrive Sergio. Quindi dai, sono riuscito anch'io a portare qualche nota, e se un critico musicale come Sergio dà, per così dire, il suo benestare, ovviamente è motivo di qualità. Saluto il vincitore che è Paolo Elis Regina. Risposta esatta. Ti ringrazio tantissimo e ovviamente la consegna sarà domani dalle ore 18 in libreria Ubic. È il momento dei saluti, volevi aggiungere velocemente? Sì, volevo aggiungere velocemente che purtroppo in concomitanza con la libreria Ubic alle 18, domani alle 18 presento insieme a Donatella Franchi un libro molto importante, che è molto particolare devo dire, che si chiama L'errore di Simonetta Scala. E lo presento al Caffè La Linea. È un libro particolare perché sia per la tematica trattata, che è abbastanza unica, sia soprattutto anche per la veste editoriale e grafica. Infatti si presenta con un'appendice di foto e di memorabilia varie, quindi una cosa abbastanza, direi, scusa, ripeto la stessa parola, abbastanza unica. E sarà domani alle 18 al Caffè La Linea. Grazie Silvia, l'appuntamento con il Voltiamo Pagina, che come al solito fa tardi, sarà per mercoledì prossimo. A tutte e a tutti un buon mercoledì, un buon ascolto, domani in mostra al Breakfast Club. Un caloroso abbraccio, grazie per l'attenzione da William Piana e da Silvia Albertazzi. Oh, l'abbiamo fatto giusto un saluto. Sì, questa volta. A ciao. Domani, ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.